Allora, eccoci qua con Giorgio De Finis, di cui abbiamo già parlato nella parte, tra virgolette, teorica. È stato direttore artistico del Macro Asilo nel periodo che vedete qua, primo ottobre 2018, 31-12-2019, affascinante questa data finale, perché poi non è che è finita l'esperienza di Giorgio, è finito tutto per un anno praticamente, quindi... Praticamente è stato davvero un canto del cigno questa festa che avete fatto. Si chiamava Finis. Questa, cioè, per farvi capire, primo che Giorgio... Dopo è arrivata la pandemia, quindi... Sì. Cioè, è lui che ha stabilito che non si potesse fare più nulla. E, ma poi, naturalmente, dopo il Macro Asilo, cioè, c'è un prima molto importante, che è la sua esperienza ideatore del MAM, il Museo dell'Altro e dell'Altrove, anche di questo un po' parleremo, e poi c'è anche un dopo, perché... continuo a lavorare per l'azienda speciale Pala Expo, che adesso possiamo dire è veramente un'azienda speciale, perché succedono cose un po' strane e un po' nuove, tra cui intanto il Museo delle Periferie, detto RIF. Tra l'altro il fatto che si chiami RIF è perché nella parola periferie, RIF è il centro, no? Credo che sia questo un po' il calambur. Lui è l'uomo dei calambur, la festa si chiama Finis. E poi c'è un'altra cosa importante, cioè che proprio questo weekend al MAM, che non è ovviamente un museo istituzionale, poi magari ci parlerà anche di questo, questa ex fabbrica, questo stabilimento Fiorucci, occupato da queste, quante sono, 150 famiglie o 150... Sono 200 persone, ok, che fondamentalmente occupavano questo stabilimento e poi non sono state sgomberate fondamentalmente perché Giorgio ha chiamato gli artisti più interessanti, più importanti d'Italia per renderlo un luogo così attraente da non poter essere sgomberato. Questa è l'operazione, no? In nuce. Ecco, alla fine questa, che era un'esperienza di conflitto, c'era sempre la minaccia dello sgombero, eccetera, nel corso dello scorso weekend, grazie naturalmente a un lavoro che è andato avanti per mesi, però insomma poi alla fine erano presenti il sindaco Gualtieri, era presente l'assessore Gotor, non verrà sgomberato, ma anzi sono state trovate le case per queste persone e anche per altre, e questo spazio rimarrà un museo, poi vedremo come. Però quindi possiamo dire un lieto finis in questo caso, una storia a lieto fine. Però quindi, estrema sintesi, direttore artistico del Macro Asilo, direttore del Museo delle Periferie, che in questo momento è un cantiere, ma prenderà forma nei prossimi anni, e ideatore del MAM. L'ho definito un sovversivo, così sovversivo da far sembrare me, che già nelle prime due lezioni sembravo un po' strano, quello normale dei due, possiamo dirlo, perché... È vero, no? Tra me e Giorgio sono quello normale. Cioè, è sempre molto relativo. Però abbiamo una cosa in comune, e cioè la diciamo, necessità di parlare di quello che non funziona e cercare di migliorarlo. A Roma quello che non funziona nel mondo dell'arte è il cosiddetto sistema dell'arte. O meglio, non è che non funziona, funziona per pochi, possiamo dire questo. Funziona per chi c'entra dentro. È una cosa abbastanza divertente, di cui parliamo spesso con Giorgio, che tutti quelli che lo contestano, non appena per qualche strana ragione riescono a essere accettati dal sistema dell'arte, smettono di contestarlo e anzi lanciano piombo fuso su tutti quelli che provano a scalarlo. Quindi in realtà non è che ci sia assoluta onestà anche nel mondo che sta fuori dal sistema dell'arte, semplicemente è una struttura di potere che usa delle leve di potere. Come funziona adesso il sistema dell'arte qui a Roma, Giorgio? Roma non è neanche... Ma Roma in particolare. Non è neanche così interessante, secondo me, da affrontare, perché Roma, diciamo, dal punto di vista del sistema dell'arte, è la periferia della periferia della periferia. Quindi, insomma, diciamo che... Insomma, poi ogni sistema dell'arte considera se stesso come una sorta, no, di potere, di baluardo, ma insomma esistono più sistemi dell'arte, questo è indubbio, come esistono, diciamo, più campionati di calcio fino al calcetto nel cortile di casa, insomma, no? Quindi, diciamo che c'è il sistema finanziario dell'arte, quello americano, che diciamo prevede, anzi insomma, prevede 3 gallerie, 2 musei e 40 artisti, di cui 20 statunitensi, quindi diciamo c'è la punta dell'iceberg che è legato alla finanza, che ha 40 artisti su 7 miliardi passa di no umani che abitano il pianeta, quindi diciamo... Ma hai detto che lo scopo di questi sistemi è far sparire l'arte. Ma sì, sì, ma allora, inevitabilmente c'è una cosa, è il sistema dell'arte finanziario o il mercato dell'arte, perché poi non tutto è finanza, c'è anche una parte che è più legata diciamo a un mercato di oggetti, di compravendita. La finanza è, come dire, cioè considerare alcuni artisti no talmente, come dire, rappresentativi del gioco che la finanza e il denaro fa nel pianeta, cioè come dire, il denaro si deve a un certo punto, deve prendere corpo, questa roba volatile deve dire, deve celebrare se stesso, celebra se stesso prendendo alcuni artisti e facendogli arrivare, diciamo, riconoscendo i valori di mercato che non esistono, che non sono di mercato. Anche appunto, trovandogli un pubblico, che mestiere... Sì, ma un pubblico di questa roba, cioè un pubblico di chi guarda è spettatore della celebrazione del dio denaro, cioè non è che viene chiamato per guardare l'arte, viene chiamato per inchinarsi, diciamo, di fronte al dio denaro. Sono opere che hanno prezzi, che non hanno nessuna relazione con qualunque cosa sia, diciamo. Quindi stai dicendo, siccome questi sono quelli che vincono, e noi consideriamo la premessa, vincono perché sono all'interno del sistema finanziario e sono quelli che vincono lì dentro, allora il pubblico, diciamo così, si autolegittima a dire è qui dentro che dobbiamo stare, tutto quello che sta fuori non è arte. Questo è quello che sostiene il sistema finanziario, okay. Cioè lo sostiene nel senso che si accordano i, diciamo, chi decide quel gioco lì, la Champions League, cioè chi decide quella cosa decide che gli artisti sono 40, lo decide in maniera totalmente arbitraria, non è che cioè lo decide in base al merito. È chiaro che se devi scegliere 40 saranno anche bravi artisti, cioè, ma con la quantità di artisti che ci sono, se li scegli pure cattivi, diciamo, sei sciocco. Cioè, quindi scelgono 40 artisti e poi chiudono la porta, questo è il gioco, e dicono questa è l'arte, l'arte di quegli artisti vale milioni di dollari, sì, come dire, è un gioco chiuso dove nessuno collezionista può comprare, cioè comprano solo 3 musei e 2 gallerie, cioè, no, le opere si tengono stoccate nei cavò, esistono dei cavò internazionali senza tasse, insomma, dove queste opere sono stoccate, tombate, diciamo, sono cavò dove l'opera che costa meno costa 1 milione di euro, no? Quindi voi capite che anche quando si parla delle collezioni dei musei, no? Io ho diretto il Macro, c'aveva cioè 4.000 opere, cioè tutte e 4.000 non fanno una di quelle nei cavò. Allora uno dice, beh, ma che collezione ci abbiamo? No, per questo dico, è una strana storia, no? Quella... Una bella metafora dell'idea di scarsità, no? Che non appartiene soltanto alla... Diciamo, lì c'è da dire, l'opera d'arte, come la finanza, è una cosa magica, no? Cioè, quegli artisti come i maghi della finanza toccano una cosa e la trasformano in oro, no? E lì però si chiude un certo tipo di gioco, diciamo, che ha delle sue ragioni economiche, ma ripeto, per me sono simboliche più che economiche, a quel livello, cioè parliamo di entità, diciamo, finanziarie che, come dire, la cui ricchezza va, come dire, si accumula a prescindere, senza nessuna, quindi non si tratta di comprare, rivendere, far alzare il prezzo, cioè questo è ancora mercato, lì parliamo della celebrazione del denaro. Tenete conto, ad esempio, che uno dei grossi collezionisti, no, in assoluto, cioè, ha scelto Punta della Dogana a Venezia e, come dire, la borsa, cioè ora se uno decide che i suoi due musei sono Punta della Dogana, cioè il luogo dove si scambiano le merci, e la borsa, cioè, sta dicendo che l'arte è roba che riguarda la finanza, cioè riguarda, no, l'ha proprio dichiarato, ha scelto due posti molto simbolici, e addirittura hanno fatto delle operazioni, se pensate, penso che conosciate tutti quella mega mostra di Daniel Hirst, no, con le statue messe in fondo al mare, c'è, cioè, una cosa, cioè, è l'Hollywood, diciamo, dell'arte, no, cioè, quella roba lì la fa solo uno che dice tu spendi quello che ti pare, ci penso io, e mette in piedi una macchina che, a parte la bellezza della mostra e dell'operazione dell'artista, che io ho molto apprezzato perché parla delle origini del museo, parla, cioè, è una mostra meta che c'ha mille cose da dire, secondo me molto interessanti, però al di là di questo dice anche un'altra cosa, dice io ho fatto questo, adesso fatemi vedere voi che fate, cioè vuoi giocare a questo livello? Gioca, e uno guarda, ma chi gioca a quel livello? Certo. Nessuno, quindi questo è creare un muro infinito dove tu stai sopra e sotto ci sono gli altri che non sono più artisti, nel senso che quando dico che il sistema dell'arte a vari livelli ha come primo compito quello di desertificare, cioè, come dire, cioè non di celebrare l'arte, ma di, come dire, no, spargere pesticidi e contro le erbe infestanti, sto dicendo una cosa ovvia che penso nessuno può negare, non è bello da dire perché ovviamente chi sta dalla parte del critico dice noi amiamo l'arte, però diciamo che in realtà i musei, le collezioni, cioè tutta quella macchina lì serve a tenere fuori quella che Perniola chiamava l'arte espansa, cioè un fenomeno di moltiplicazione degli artisti, ma è una cosa ovvia, se ci pensiamo l'arte nasce con i sapiens, è un tratto tipico dell'uomo, quindi perché gli artisti dovrebbero essere pochi? Ho una slide, cioè, con le cave di Altamira che faccio vedere. Ma certo, ma certo, ma voglio dire, il Magrasilo per esempio era il tentativo di far apparire gli artisti. Esatto, infatti. Cioè a differenza della sparizione degli artisti, che è quello che avviene in tutti i musei, cioè tu c'hai pochi selezionati che tutti dicono falsamente essere i veri artisti, gli unici, quelli su cui puoi investire sicuramente perché questo farà, cioè fuori c'hai come dire, no, la moltitudine che preme, come dire, no, perché ovviamente tutti sanno che se per caso si apre una crepa il museo viene giù, come viene giù la collezione, come viene giù il mercato, quindi ecco, diciamo è una costruzione un po' fasulla che insomma si scricchiola da tutte le parti, però tutti quelli che fanno parte del gioco non dicono che il re è nudo, sta in mutande, tutti dicono che è bel vestito imperatore, complimenti, cioè, voglio dire, no, Magrasilo era un po' il bambino che diceva al re, ma signore, ma il re è nudo, senza voler, come dire, cancellare il sistema di arte perché non ce ne importa niente, cioè per me, no, ma far vedere che c'è, che no, c'è. Ma per me era una delle mille questioni, cioè il museo, l'arte, le cose non servono, servono agli umani, servono alla città, hanno una funzione che va ben oltre, diciamo, quella del sistema e del mercato dell'arte, che è una nicchia di cose che insomma secondo me riguarda poche persone, cioè, come dire, mentre l'arte può riguardare tutti, no? Anzi, dovrebbe riguardare tutti. Quindi per me il museo era da sottrarre a questa catenina, diciamo, no? Dove ognuno fa il suo compitino per la valorizzazione di X artisti e la negazione di no? Y. Senti, ma secondo te perché a un certo punto storicamente è stato possibile un progetto del genere in uno spazio istituzionale? Perché a Roma di, diciamo, occupazioni, iniziative dal basso, più o meno dal piccolo, però, ma con il sigillo del comune non era ancora, cioè che cosa lo ha permesso? Io ho fatto prima un po' di ipotesi legate al fatto che si è anche squarciato un certo reticolo politico a Roma, però non si era aperto una parentesi, però forse non spiega proprio tutto, cioè forse siamo arrivati a un punto critico anche di sopportazione del sistema della scarsità indotta dalla finanza, dal marketing, eccetera, che dicevamo prima, non so. Sicuramente, diciamo, un ragionamento su, come dire, una gestione 5 Stelle rispetto, che è un partito che irrompe in maniera qualcuno dice populista, comunque sicuramente è fuori delle regole, diciamo, no? Di un gioco anche quello molto codificato. Poi si sono subito codificati anche loro, certo. Però diciamo che all'inizio non avevano le idee chiare. Non è quella, diciamo che all'inizio si è entrati nel gioco della politica, parlo dei 5 Stelle, come dire, rovesciando il tavolo, poi il tavolo è stato rimesso subito a posto con tutte le scusate, cioè adesso anche con i divieti di velocità. Giochiamo anche noi, perché dentro il gioco della politica si gioca solo così, cioè un gioco è come il sistema dell'arte, cioè c'hai le sue regole, non le puoi violare se no esci dal gioco. Gioco della politica, quella istituzionale, è fatta così, cioè non puoi fare delle cose, cioè delle, non puoi dire voglio, cioè, come dire, riprendiamoci il Vaticano, cioè, posso dire una cosa così che politicamente potrebbe anche essere una tesi, no, dice io voglio riprendere il Vaticano. Senti, ma in questi appunti che tu avevi scritto, che poi sono diventati parte del materiale promozionale, si parla di museo come dispositivo, che però mi sembra abbastanza un tormentone, cioè adesso tutti dicono che il museo è un dispositivo, però ma dispositivo, in questo caso però, in realtà il museo è un dispositivo in senso Foucaultiano, nel senso che è una macchina che ha i suoi divieti, i suoi, cioè entri da qua, sei obbligato ad andare di là, c'è il biglietto, cioè quindi è un dispositivo, diciamo, come lo intendo io, ovviamente è un dispositivo d'artista, cioè io mi considero un inventore di musei, cioè i miei musei sono musei firmati Giorgio De Finis, che poi diventano di tutti nel momento in cui tutti, in primis gli artisti e poi i cittadini, gli intellettuali, io poi dentro questa macchina non c'è più il pubblico, sparisce, perché sono tutti invitati a partecipare, quindi sono tutti parte del gioco, no? Però le regole iniziali, che ripeto, possono essere seguite come pure rimanere lettera morta, no? Cioè, nel senso, io propongo un gioco, poi nessuno viene a giocare, vuol dire che il gioco non ha funzionato. Però questa, diciamo, qua è una delle gabbie di vetro nei famosi atelier, dove si mettevi, diciamo, gli artisti al lavoro e da fuori le persone potevano vedere mentre lavoravano. Io raccontavo prima che spesso i bambini facevano le persone facevano domande. Era previsto, diciamo. Anche se questa cosa la spiego un attimo, perché sembra sempre che uno fa delle cose così un po' spettacolari, un po' no? Ah, De Finis ha messo gli artisti nella vasca dei pesci rossi. Però spiego da dove nasce, per esempio, questa idea. Noi abbiamo fatto due progetti in un ex carcere a Monte Piascone, piccoli progetti in un micro carcere di 15-16 cellette, insomma, che il comune aveva ristrutturato. Si facevano iniziative, le mostre estive col chiodino. Mi hanno detto, vuoi fare? Ci vuoi aiutare a lanciare questo spazio? Io ho proposto due progetti legati uno all'altro. Il primo è stato quello di chiuderci, mi ci sono messo anch'io sia come curatore che come artista, diciamo, chiuderci ognuno in una cella per una settimana, 10 giorni, se non ricordo, con un'ora di aria per ciascuno. Sembra chiusi, un romanzo di Allan Poe. No, chiusi da fuori con questo compito qua, cioè tu hai da una parte il privilegio, la fortuna, la libertà di poter trasformare questo piccolo spazio nel tuo mondo, cioè esplodi la tua testa, esplodi la tua soggettività, la tua singolarità fino a invadere il mondo, no? E dall'altra però subisci la conseguenza di questa tua ubris, nel senso vuoi trasformare il mondo e noi ti ci vediamo dentro, nel senso che comunque l'isolamento è anche la condizione iniziale di qualunque artista. Cioè, quando mi stai tu dando dici, delle idee pericolose per delle esercitazioni. No, quando tu dici io sono un artista, ma ancora non sei conclamato, cioè, la prima cosa che fa un giovane artista, prima fai i disegnini, li fa vedere la fidanzata, si nasconde, poi a un certo punto esce allo scoperto e dice sono un artista. Quando dice sono un artista, la prima cosa che gli arriva sono i sassi, le pernacchie, cioè, perché giustamente si è messo su un piedistallo e deve convincere tutto il mondo che questa sua cosa è giusta e rispettata. Allora, dentro la cella tu hai, diciamo, questa libertà, cioè di dire io cancello il mondo e lo ridisegno a mia immagine e somiglianza, lo posso fare, però sono pure solo, cioè questo mio idioletto, cioè questa lingua mia privata, non la parla ancora nessuno e quindi rischio la solitudine, l'isolamento, la prigione, nel senso non solo della punizione, c'è anche questo, perché poi molta dell'arte contemporanea, molte delle operazioni, qualcuno le ha accusate anche di essere delle truffe, di essere degli inganni, di essere delle furbate, no? Quindi diciamo c'è questa idea che comunque ti meriti anche la prigione. Il secondo progetto si chiamava Face to Face. C'è il famoso urlo in galera, no? Che se tu vedi Marina Bravo, dice Ulai, molti diciamo che avevano 70 anni vedendo quella performance, dicevano ma in galera tu l'hai messa in galera? Poi ci siamo automessi, perché sempre c'è, non metto nessuno in galera, non sono un violento, ci siamo auto-imprigionati e ognuno faceva la sua opera, alcune sono veramente state interessanti. Per esempio c'era un artista che ha costruito un muro e si è ridotto ogni giorno lo spazio fino a essere partorito il giorno della fine del progetto. Cioè l'ultima notte ha dormito così tra la porta e le cose, quando ha aperto la porta è uscito, ha tirato la parete e non si entrava più. Quindi diciamo ci sono state anche soluzioni molto interessanti secondo me. I visitatori potevano vedere la stanza solo dopo, oppure incontrare gli artisti in parlatorio. Cioè, il gioco era che tu chiamavi, voglio incontrare, però scendeva tra l'altro con la tutina arancione di Guantanamo l'artista, parlava con il visitatore, che a volte ci hanno portato anche le passarelle, perché poveracci, ma qua ci siamo messi da soli, qua stiamo benissimo, non si preoccupi, eccetera. Il secondo progetto si chiamava Face to Face, sì. Ed era invece l'incontro uno a uno, 10 minuti in ogni cella, c'erano gruppi di 15-16 artisti al giorno che avevano i loro 10 punti, il loro tema e i 10 punti da declinare, e ogni 10 minuti suonava la campanella, il visitatore era preso da una stanza, portato nell'altra, chiuso dentro a chiave fuori con l'artista che gli raccontava qualcosa, gli faceva fare qualcosa, gli mostrava qualcosa, una cosa anche un po' come dire snervante, perché non sapevi neanche chi era, non c'erano i nomi, c'è cioè, parlare. Questo poi succedeva anche al Macrosino. Anche al Macrosino. No, cioè, me... tu stavi in caffetteria, a me è capitato prendere un cappuccino, a un certo punto una signora è rotolata per terra davanti a me, si è rotolata sulle scale, e quella era una performance, ma era una performance non annunciata, o meglio, sì, annunciata genericamente che nel corso della giornata potevano succedere queste cose, però entravano anche in quella specie di uso consolatorio dello spazio pubblico alla Renzo Piano, no? Quando dice questo è un posto dove stare, dove porti i bambini a camminare, eccetera. Sì, però può anche esserci l'insulto ischemico, cioè l'ischemia, cioè il momento in cui qualcosa non funziona e ti fai una domanda, quindi ti metti in gioco come persona, cioè sai che quando entri in quello spazio può succedere qualsiasi cosa. Questo io l'ho vissuto in questo anno e mezzo. Questi due piccoli esperimenti, sì, che vi sto raccontando così, diciamo, sono poi si sono tradotti in qualcosa di più complesso nel macro, perché per esempio il visitatore che faceva 2 ore di giro prima di uscire e incontrava frammenti di discorso che poi si mischiavano in maniera casuale, perché quegli artisti non erano stati messi lì per fare una narrazione, erano così casuali. No, la narrazione la costruiva il visitatore, ma la costruiva anche in maniera caotica, anche in maniera problematica. Alla fine noi avevamo l'ultima stanza, era di decompressione, c'era un lettino, il visitatore poteva stendersi 10 minuti e cercare di capire che era successo, perché no, fare un po' una ricostruzione di quello che... e anche riposarsi, perché qualcuno usciva e barcollava, l'abbiamo dovuto sostenere, perché insomma era... Quindi diciamo il Macrasillo era così, diciamo, no? Non erano celle chiuse, ma tu giravi da una stanza all'altra, incontravi un artista, incontravi un dibattito, incontravi una performance, ti sedevi un attimo, poi ripartivi, cioè alla fine uscivi con un gran mal di testa, non con delle risposte, la speranza era con un po' di domande. Quindi anche quelle stanze di vetro era l'idea di entrare nello spazio privato e intimo dell'artista, che è il suo studio, diciamo, nel quale nessuno ha accesso, attenzione, perché il critico e il collezionista entrano nello studio, l'artista gira i quadri che sta facendo, ti fa vedere quelli finiti, cioè, non è che tu vedi l'artista mentre lavora, cioè quello è un momento veramente, forse i parenti, cioè hanno i figli che entrano, papà, sì, papà sta di lì, cioè possono vedere l'artista, se no, no. Allora l'idea è di far vedere come nasce un'opera, far vedere, cioè abbassare la soglia di questo muro, la quarta parete, la quarta, far vedere questa cosa per chi se la sentiva, e in questo modo diciamo anche i pittori diventavano performer, anche i pittori diventavano artisti relazionali, cioè in un museo relazionale tutto era relazionale, pure prendere il caffè diventava relazionale, perché tu appunto andai a prendere il caffè e poi ti rotolava accanto, quindi, e poi c'era il dibattito, cioè non sai con chi parlavi, quindi non era un caffè, era sempre una grande performance. Quando mi chiedo che cosa è rimasto del macro asilo, quando si dice cosa rimarrà di questi anni Ottanta, no? Nel caso del macro asilo, anche complice sicuramente la pandemia, cioè il grande vuoto che c'è stato dopo, che ci ha permesso di riflettere su questa esperienza, perché io penso che se poi ci fosse stata di nuovo immediatamente sia la gestione di quel museo, ma poi in generale, no? La ripresa di tutto come era prima, Non avrebbe funzionato così, cioè come se fosse stato un pezzo del progetto la pandemia, perdonami se la sto un po' tirando per i capelli, però in realtà per esempio durante la pandemia, quando siamo usciti di casa perché era finito la quarantena propria, ma andavamo in una città dove non c'erano musei aperti, molti artisti hanno reagito con delle logiche che mi hanno ricordato la teoria, per esempio quando hanno cominciato a aprire al pubblico gli studi d'artista in giro per Roma, hanno cominciato ad aprire tanti studi d'artista al pubblico ed erano gli unici posti dove anche in pieno lockdown si poteva andare, e che cosa si faceva? Si vedeva l'artista mentre lavorava, si parlava con l'artista. Questa cosa è rimasta. Un'altra cosa che è rimasta è che se adesso andate al Manco diretto da Luca Lopinto è gratuito l'ingresso. Io credo che il fatto che ci fosse questo tuo precedente sicuramente è qualcosa che in quel progetto è stato preso in considerazione, cioè anche se è un progetto curatoriale diverso, cioè, però comunque secondo me ha costituito un precedente, no? Adesso sì, ma le casse io le ho fatte distruggere, quindi forse per non ricostruirle diciamo hanno detto ma ci costa rifare le casse, per un altro po' non le mettiamo, no, ma non è quello, diciamo che allora il Magro Asilo è stato interrotto con una certa violenza e scelta, come dire, un certo fuoco amico che è stato mascherato anche da continuità, diciamo, nelle parole di presentazione del progetto di Luca Lopinto, tutti coloro che lo raccontavano. Quindi era una specie di greenwashing alla fine. Ma era fasullo, cioè si diceva, ringraziamo tanto De Finis che però per liberati, però diciamo naturalmente proseguiamo il lavoro di De Finis, io sempre dicevo ma se volevi proseguire, a parte c'avevo un contratto di altri 2 anni che mi avete buttato nel secchio, poi dico non sono morto, non sono andato a lavorare in Cina a Dubai, quindi perché dovete chiamare qualcun altro. Si parla di te alla memoria. No, in realtà il progetto era radicalmente, cioè il progetto ha soprattutto all'inizio dialogato punto punto con il Magro Asilo, dialogato però in maniera sempre, cioè se tu guardi l'editoriale, non so chi l'ha visto, l'editoriale, la prima opera c'era il manifesto di non ricordo quale artista, però storicizzato come vero artista, non sedicente tale, che diceva invito tutti gli artisti a entrare nel museo a prenderne possesso, quello che noi abbiamo fatto con l'automappatura, chi vuole venire al Magro alza la mano e diventa un pezzo del museo, cioè, però i nostri artisti non erano quelli morti oppure già che battuti all'acqua, cioè, capito? Hanno ripreso tutti i punti, come a dire vanno bene questi punti, però dopo che il sistema, cioè quelli giusti, non tutti questi. Io ricordo una battuta di un artista molto di sinistra che ha firmato un documento con Cunellis per dire che appunto l'arte si doveva riappropriare degli spazi museali che dovevano essere... Cioè quando entrarono 8.000 persone il primo giorno per la vernice, guardò ste folle e disse: ma chi sono? Ma chi è sta gente? Ma chi c'entra? Cioè, dentro il museo, capite? Come una violazione dello spazio sacrale di gente che non c'entrava niente. Ma in effetti a volte non c'entrava niente, era semplicemente la città che era stata chiamata a incontrare gli artisti, quindi la città non sempre si occupa, diciamo, di arte, non è un mondo chiuso come quello del mercato, del sistema, no? Quindi sì, no, però volevo dire che insomma il museo di Lopinto e quindi la pandemia in realtà che lo ha molto favorito, non ha favorito il magazzino, ha favorito l'azzeramento di quelle folle. Della memoria, del tempo di riflessione, perché tu il tuo museo lo devi vedere anche come un oggetto di studio. No, ma certo, ma io ho ancora lo studio, non è quello, però la pandemia, cioè tu immagini della fine del Magrasilo con 333.000 visitatori e il giorno dopo l'apertura del museo ostile di Luca Lopinto, che dopo 5 minuti te ne scappi, perché è proprio, ti sta dicendo, se non sei dei nostri, che ci capiamo noi, puoi pure andare da un'altra parte. Cioè, voglio dire, si sarebbe avvertita una certa, no? Cioè, quello spazio il giorno dopo non era più tuo, prima era tuo, poi non è più tuo. Quindi in questo senso invece diciamo l'azzeramento, cioè il nulla, l'azzeramento, diciamo, proprio della frequentazione ha permesso una riapertura dove poi si era persa l'abitudine a stare insieme, anzi stare insieme in questa maniera, cioè con la pandemia era quasi diventata una roba criminale, cioè che tu la pandemia ti avvicinavi e dici che sta a fare noi, quindi diciamo che il Magrasilo la pandemia lo ha proprio azzerato anche in quell'esigenza di toccarsi, di stare insieme, di abbracciare, cioè, anche di vivere, di rotolare, cioè, pandemia è diventato tutto, ognuno a casa sua, ognuno. Quindi secondo me no, la pandemia ha aiutato molto anche a fare tabula rasa delle esigenze che c'erano dietro questo progetto. Poi è andata così, non è che la pandemia l'hanno fatta venire per fermare il Magrasilo, hanno importato la Cina, cioè, trovate un virus per impedire al Magrasilo di diffondersi. Ecco, ho provato a raccontarle, ragazzi, prima il perché di questa scelta della quadreria, cioè nello spazio più grande del Magrasilo praticamente tu hai fatto esporre un pezzo della collezione in un modo in cui non fosse fondamentalmente fruibile l'opera singola, no? Come, l'hai appeso come una sorta di anche di protesta per il fatto che la collezione normalmente non è a disposizione. Era un manifesto, molto tanto il Magrasilo non aveva mostre, era l'arte viva che si mostra, era il museo nuovo che si mostra, quindi l'arte c'era perché si faceva, ma usciva dalla porta appena era asciugata, cioè il quadro è finito, fuori dalla porta, avanti il prossimo, quindi diciamo io non volevo un museo asettico, freddo, glaciale, volevo una casa, quindi ho arredato il salone di casa come avrei arredato, come, cioè si chiama proprio questo tipo di allestimento, è un allestimento domestico, cioè quando tu hai tanti quadri a casa li attacchi così, cioè, no? Perché li ho attaccati così? Un po' per fare casa, perché così l'abbiamo chiamato, e un po' per fare un manifesto, cioè la frase era gli artisti che partecipano al Magrasilo sono sì singolari, ma lavorano tutti insieme, nessuno vuole la morte dell'altro, non c'è competizione, c'è cooperazione, eccetera. Quindi era un manifesto per dire, no, far apparire l'ecosistema dell'arte contro il sistema dell'arte che separa, divide in base ai generi, in base alle storie, in base ai coefficienti di mercato, no? Quindi io ho messo tutti insieme, non che tutti insieme avessero lo stesso valore, questa è stata anche una cosa un po' scorretta che mi hanno attribuito, io non penso che siamo tutti uguali e abbiamo, cioè ognuno ha la sua storia, chi entrava al Magrasilo con 10 medaglie al valore che entrava come giovane artista sconosciuto, cioè, no, quello eri quando entravi e quello eri quando uscivi. Cioè, tra l'altro era l'unico museo in cui entrando non guadagnavi niente in termini di coefficiente di mercato. Quindi era proprio il tuo contributo alla costruzione di uno spazio comune, no? Cioè, io do il mio contributo per sostenere un museo che incontra la città, che incontra, no? Cioè, come dire, no? Perché tra l'altro io non so quanti di voi sanno anche questo, sembra un dettaglio anche un po' così, siamo abituati a non parlare di soldi perché è volgare, insomma, io purtroppo sono cresciuto con questa cosa, non si parla di soldi, cioè, però voglio dire, sapete quanti soldi ci avevamo per un anno? L'ho detto prima. Voglio dire, sono 30.000 euro al mese da cui togli gli stipendi, cioè sono 4-5.000 euro di spesa al mese per 520, cioè noi abbiamo prodotto 520 con 4-5.000 euro, ora sfido chiunque a fare un evento, due con 5.000 euro. Cioè, no. Eppure forse è stata la cosa più critica. Cioè questo, cioè il fatto non è stata criticata, non è stata semplicemente capita, tra l'altro criticata anche questa in maniera faziosa, come dire, non è che qualche artista viene pagato quando va al Maxi, quindi io poi dicevo sì, ma perché tu quando vai al Maxi ti pagano, no, che c'entra uno che c'entra, quando ti chiamo io dicendo che ti sto chiedendo un dono da portare in uno spazio comune è una logica diversa, no, voglio dire, tu vai al Maxi dove il dono non lo chiede nessuno, semplicemente. Ma tra l'altro dico, lo sanno tutti e lo sanno anche gli artisti che mi contestavano spesso, ma fa parte del gioco del re nudo, che bel vestito, sta mutando. Cioè, voglio dire, gli artisti che esponevano al Magro fino ad allora, voglio dire, pagavano il gallerista, pagavano il curatore, pagavano il catalogo, pagavano tutto, però era il museo che apparentemente li stava valorizzando. L'artista veniva rapinato consenziente, diciamo, cioè, nel senso che pagava in opere, soldi, quello che era, pagava tutta la macchina per portare chiave in mano la mostra al museo, che ovviamente l'accettava proprio perché era chiave in mano, diciamo, no, quindi non spendeva niente, diciamo, ci sono anche musei che fanno pagare la sala, ma diciamo, nel caso specifico, diciamo, era il museo si apriva quando c'erano tutte le carte e funzionano, 80-90% dei musei non funzionano così, anche quelli importanti con contributi importanti, diciamo, non solo il catalogo, il curatore, per appunto ci sono anche altri denari di mezzo, però diciamo, quindi era ridicolo che l'unico museo in cui non si pagava niente, cioè, no, come dire, no, non fosse accusato di sfruttare, diciamo, gli artisti. Io conosco artisti, ma io ci ho lavorato, ho curato mostre in cui, come mostre che sono costate 40, 100 mila euro, 100 mila euro, chi li ha pagati? Cioè, li ha pagati in opera l'artista che si è visto svaleggiare dei 3 anni di lavoro lo studio per avere un catalogo, un mese di mostra, perché poi non è che il gallerista fa che, cioè, vuole 100 mila euro reali al prezzo in cui lui vende, ovviamente lui compra a decimo, certo. Quindi l'artista viene, cioè, come dire, veramente entrano i facchini, portano via tutto e l'artista dice: ho fatto questa, ho guadagnato mezzo punto di coefficiente però con questa operazione, cosa che lo mette definitivamente a tappeto, perché se già non vendeva prima, quando sale di coefficiente vende ancora meno, quindi diciamo è una macchina perversa, cioè l'artista è messo nel tritacarne spesso e volentieri. Insomma. Siccome i ragazzi di questo corso, io li chiamo ragazzi in modo che sembro più giovane pure io. È un dato oggettivo ai nomi. Sono qua soprattutto per capire come comunicare in rete la cultura, in questo caso anche l'arte contemporanea. L'esperienza del Macro Asilo sotto questo profilo a sua volta è un'esperienza abbastanza di rottura, perché il sito non è assolutamente nulla di fantascientifico, non ci sono effetti speciali, è un banalissimo portale che contiene, mi verrebbe da dire, no? Quello che era possibile trasferire con la tecnologia, cioè la tecnologia usata per ridurre al minimo le barriere di accesso al contenuto, e quindi invece che essere una vetrina, alla fine è diventato l'archivio multimediale, progressivo di tutto quello che succedeva, no? Il calendario sì, aveva le sue cellule che erano per dire succederà questo, ma poi dopo rimanevano come la testimonianza poi documentata con audio e video di quello che era successo. Per esempio, adesso, se io vado sulla parte video e foto, ci sono, diciamo, quasi tutti gli eventi avevano poi, no, la generazione di una, diciamo, testimonianza. Che, credo di essere stato il primo museo che aveva 3 videomaker assunti, diciamo, nello staff che operavano. Perché normalmente cosa succede? Che chi, per esempio, in una mostra chiave in mano porta, no, la propria offerta, poi è anche il dominus di tutte le propaggini digitali che la mostra genera. Cioè è difficile che il museo si faccia carico, no, della... Sì, il museo può essere un editore, un redattore, ma è sempre per fini promozionali, è sempre la vetrina, no? Non è l'idea di dire io mi prendo in carico il compito di documentare prima, durante e dopo tutto quello che succede. Ci sono esperienze simili a questa, ce n'è una a Berlino abbastanza importante, magari ne parleremo più avanti quando faremo le esercitazioni. Però ecco, per esempio, l'idea di tutte le conferenze, che c'erano tantissime conferenze, sono state registrate proprio senza nemmeno un criterio editoriale particolarmente importante. Semplicemente sono state registrate in buona qualità in dei file audio che rimangono nell'archivio. Quante sono? Sono qualche centinaio di questi file. Obiettivamente non sono molte le esperienze che promettono questa integralità, no, della restituzione di quello che... Cioè, la prima cosa che mi viene in mente è quello che fa Radio Radicale, no? Loro portano i microfoni a tutti gli eventi dove vanno e meno male te li puoi scaricare. Poi esiste la mosca bianca dell'archivio del Lucia che praticamente ci ospita e che può permettersi di fare questo perché è proprietario di tutto quello che ha prodotto, però la stragrande maggioranza di tutte quelle istituzioni culturali che pretendono di essere editori si fermano al lato promozionale, cioè non c'è la promessa di dire quello che tu troverai qui è tutto ciò che la tecnologia mi permette di fare per eliminare ogni barriera d'accesso al contenuto. Ora, loro non avevano molte risorse, però era una persona molto capace e che è riuscito su un server che sta in piedi ancora per miracolo, perché non è più gestito, mi sembra, dall'azienda speciale Palan Expo. È congelato, però ovviamente è fermo. Esatto, non c'è manutenzione, immagino, no? Cioè, ti fa capire, quando parleremo della fragilità della memoria digitale, in realtà l'archivio del macro asilo è ciò che era il suo sito fin dall'inizio. Ecco, questo è un modo, secondo me, se dobbiamo davvero cambiare un po' le regole del gioco, pensiamo al sito e alle property social delle nostre istituzioni culturali come a un archivio vivente, direbbe anche Andrea Viviani, no? Che sta cercando, che al madre aveva cominciato a fare questo, adesso lo fa al Museo delle Culture. Vabbè, questo nasce, tanto voglio dire, che buttare di materiali così importanti, no? Ma la cosa era anche che noi producevamo eventi in simultanea, cioè, quindi anche se uno, il nostro, diciamo, visitatore, fruitore ideale era uno che non aveva niente da fare tutto il giorno, entrava con noi alle 10 e usciva alle 8 di sera, non avrebbe potuto seguire tutto perché c'erano cose che accadevano simultaneamente, quindi diciamo che era un dovere rimettere in giro le cose. Perché è vero che si chiedeva una scelta, però è anche vero che una volta veramente soffriva di dover andare a destra e non poter stare anche a sinistra. E a me sempre mi diceva, ma perché le metti così in concorrenza? Cioè, perché non le metti? Perché dico, noi riempiamo tutte le caselle, abbiamo 15 stanze, 10 o 18 volte, come l'albergo si mette le X ogni ora la riempi, poi. Perché dovevamo riempire tutto? Perché era una crepa con uno spazio-tempo limitato, più cose faceva entrare e più possibilità di dare voce, no, e far apparire. Quindi l'idea, l'obiettivo era quello di riempire tutto. Poi non ce l'abbiamo fatta, ma abbiamo riempito molto, insomma. Sì, e questo, se ci pensate, è un po' una regola tipica di internet, cioè il famoso best effort. Cioè molto spesso noi pensiamo di essere in uno spettro che è tra ok, vetrina, scarsità oppure integralità, tutto quello che è in mezzo è un valore, invece quello che è in mezzo è quello che fa funzionare internet, cioè il best effort. Anche l'internet archive non ha una pretesa di integralità, ma fa il possibile per conservare tutto. Adesso io qui ho messo Giuditta Sine, che aveva fatto la performance EcoSex, che era bellissima. Ecco, questo è quello che poteva capitare ai visitatori, e questa è una delle cose meno hard che succedevano con Giuditta Sine. No, una cosa divertente, sì, sempre per la cosa, è che quando diciamo ho incontrato Sofia Micciche, che è stato il nostro, diciamo, responsabile per la parte comunicazione social eccetera, lei mi ha trattato un po' come all'inizio, come un vecchio rimbambito, ma lui voleva spiegare, diciamo, eravamo seduti nel mio ufficio e lei diceva sì, Giorgio, certo, però sai, l'algoritmo poi, come dire, ostacola chi posta più di 5 cose, bisogna mettere quegli orari, dicevo, non me ne frega niente, di noi abbiamo 30 eventi un giorno, devi pubblicare 30 post più la restituzione del giorno dopo, più i video del giorno dopo, più le foto del giorno prima, cioè voglio dire, questo è quello che tu devi mettere, punto. Così è un suicidio, così moriamo, non c'è, non mi interessa niente degli algoritmi, se ci sono 30 eventi io devo mettere 30 post, cioè, sì, ma soprattutto, come dire, è una cosa ovvia, no? Da social media manager, pensando di avere un capo che poi ci chiederà le visualizzazioni, la reach, i contatti eccetera, allora è chiaro che dobbiamo, il nostro primo riflesso è dire, io preparo 5 contenuti e faccio, compro sponsor post e faccio operazioni per rendere visibile questo contenuto, e quindi sto concorrendo alla grande battaglia dell'attenzione. Avete visto la definizione del museo che abbiamo proiettato prima? Non ha nulla a che vedere con la funzione del museo tutto questo. Cioè, avere tante visualizzazioni sul video non è un obiettivo istituzionale del museo, semmai garantire l'accessibilità a quel contenuto in un tempo indefinito, ecco, quello sì. Quello sì, e soprattutto anche garantire il riuso di quel contenuto. Sì, diciamo che non era la nostra priorità, e comunque l'algoritmo ha ceduto a un certo punto, non solo al nostro lavoro, ma siccome quei post venivano rilanciati da tutti e poi c'erano i post degli artisti che noi condividevamo, cioè è talmente la macchina produceva, ma ogni 10 minuti usciva un post che da una parte cancellava anche il precedente, quindi, come dire, era pure faticoso, perché uno metteva un bel contenuto, dopo un secondo boom appariva un altro, magari debole, quello bello l'hanno visto in 10, però questa macchina produceva tanta di quella roba. Voi pensate, migliaia di persone che fanno eventi, che dicono ci sono io, qua sono io mentre dico, cioè, che ovviamente poi c'è l'amico che fa la foto, c'è lui mentre dice, cioè, e questa roba si moltiplica, e l'algoritmo l'abbiamo proprio a un certo punto travolto, nel senso che poi noi salivamo di numero, salivamo, quindi il risultato c'era anche in termini poi di, no, di like, in termini di visualizzazioni, cioè, che non era l'obiettivo iniziale naturalmente, no? L'obiettivo iniziale era mantenere il nostro dovere di comunicare quello che stavamo facendo con gli strumenti leggeri che ci avevamo. Va bene, allora penso che col macro asilo ne abbiamo anche parlato anche troppo forse, ma appunto, come dicevamo prima, la storia di Giorgio nel suo rapporto con l'arte qui è un po' fondamentalmente, poi successivamente ha avuto dei ruoli sempre più importanti nel rapporto, diciamo, con l'arte contemporanea. Io pensavo di introdurre magari il tema Metropolis facendo vedere questo, il tema MAM, facendo vedere questo video in occasione della campagna per fare un sito dell'UNESCO. Sì, questa è stata una campagna, ovviamente sapevamo che era anche una provocazione, però l'abbiamo fatto molto seriamente, come si fanno i giochi, sempre bisogna giocare seriamente. Quindi abbiamo prodotto un dossier così, un video in inglese, tutto quello. Ma poi che... UNESCO, poi dopo... No, poi è arrivata una risposta, tra l'altro adesso pare che sia lei con Museo Casilino, stia in qualche modo entrando, quindi, però è arrivata una risposta dal Ministero della Cultura, ufficiale protocollata, che diceva che insomma, il nostro progetto museale era pazzesco, complimenti, e purtroppo le regole UNESCO vietano ai musei di candidarsi. Ah, ok. E quindi ci dispiace tanto. Ora, ovviamente, quella lettera per noi è stata, come dire, il MIC che ci ha riconosciuto un museo con una lettera protocollata, quindi diciamo che se ci frega, che ci frega dell'UNESCO, infatti. No, però voglio dire, per cui poi alla fine, quando tu giochi, c'è sempre chi, cioè spiazzando, poi alla fine c'è sempre chi non riesce più, capito? Perché lì la cosa, la vera lettera che doveva arrivare era: siccome siete un museo abusivo, illegale dentro la proprietà di Serini, noi non solo non vi portiamo all'UNESCO, ma speriamo che vi sgombrino domani con le forze, vi arrestino tutti. Però una lettera così, di fronte alla qualità degli artisti, alla quantità, cioè, non si può mandare, quindi ci hanno mandato una cosa dove ci facevano tanti complimenti, insomma. Senti, mi sa che io sospetto che non ci sia il codec per vedere questo video in questo, non lo so, in questo computer forse sta pure su YouTube, infatti forse sembra che sia l'unica cosa da fare. Questo quick time risale secondo me agli anni 90, che c'è stato installato qua. Sì, non lo so, insomma, io lo vedo, però diciamo perché magari c'ha il codec. Allora, proviamo a cercarlo su YouTube, prova a scrivere Metropolis UNESCO, una cosa così, vediamo se esce. Però se no, insomma, non è importante. Comunque, diciamo che il macro e il Metropolis si sono legati, perché io sono stato invitato diciamo, a dirigere il macro in ragione dell'esperienza del mamma, cioè ha sempre detto che era il mio unico biglietto da visita, quindi diciamo, le due cose sono legate. Il fatto che si chiami asilo pure fa capire che, insomma, no, è questo qua, ma anche a sì. UNESCO, vediamo. Sì. Sempre la pubblicità, naturalmente. Voi prendete nota di tutti i prodotti che poi dovrete comprare per finanziare questi prodotti. The inhabited museum Metropolis was born in the eastern suburbs of Rome in Via Prenestina 913, close to the Tor Sapienza district in the former industrial area that housed the Fiorentina meat factory until the mid-1980s. The area has remained abandoned and unused until March 2009, when a mestizo community decided to settle there, giving life to an experience of sustainable urban regeneration on an environmental, economic, social, and cultural level through the recovery and reuse of the structures of the former factory, which has been transformed over the years into a museum of contemporary art that is unique precisely because it is inhabited. Telescopio di Gian Maria Tosatti, per chi non l'avesse riconosciuto. The regeneration of the building took place through the pooling of everyone's knowledge and skills, reusing the material that was available in the factory and drawing on ancient construction techniques such as round earth. In the area, 70 houses have been recovered for over 200 Italians, migrants and refugees. Roma, Romanians, Ukrainians, Peruvians, Moroccans, Sudanese, Eritreans and Ethiopians. And also a space for public use, the MAAL, Museum of the Other and the Elsewhere of Metropolis Mestizo City. The community is in charge of its continuous care and of the reception of visitors through guided tours and through the Mestizo Kitchen, an intercultural place of meeting managed by a group of women. The former Fiorucci factory regeneration experience took place through the encounter and collaboration between its inhabitants, artists, housing rights movement activists, territorial debaters, students, researchers and supporters who have chosen to advocate the right to decent housing, childhood and culture for all. The over 80 underage children who live in the museum share spaces where they can study and play through a number of activities aimed at educational aid and sports. These activities are open to the territory as well as the initiatives of MAAM that are were experienced by the whole city. The MAAM, which counts more than 600 artistic interventions, is a core work of art on an urban scale that conveys the utopian and tangible image of a potentially different, inclusive, rural, fair, self-managed city, and of a social, generous art capable of building a shared space starting from the budget of people. The affirmation and defense of fundamental human, civil, and social rights are at the basis of the birth of this multicultural community that, in mutual respect and in the valorization of differences, shares the task of maintaining this asset, which is recognized as an essential part of its cultural heritage. This experience produces in the community a strong sense of identity, the inhabitants of Portland's own Metro Valenciani, and of continuity for its daily replication and through the transmission of its cultural, social, and political value to the generations born and raised within it. Questa operazione, no? Questo era semplicemente uno stabilimento industriale occupato da queste famiglie. E com'è nato proprio il contatto iniziale con queste famiglie? Cioè, com'è nato? Io ho conosciuto Metropolis, che era stata appena occupata, facendo il giro a piedi del grande raccordo anulare con lo Stalker, che è questo collettivo di artisti, camminatori, architetti, diciamo, interessati alle zone di frangia, alle zone non consolidate della città, no? Quindi periferie, migrazioni, cioè, con loro ho lavorato molto, abbiamo fatto tanti progetti insieme e questi tre mesi di camminate, che ovviamente non erano lungo l'anello del Gran, insomma erano zigzaganti, diciamo, abbiamo fatto quasi 300 chilometri per capire cos'era Roma, sta città a macchia di leopardo che sembra Mumbai, diciamo, no? E facendo questo giro esplorativo abbiamo incontrato Metropolis. Due anni dopo, io e Fabrizio Boni, con tanti amici, tra cui anche un pezzo di Stalker, abbiamo proposto un primo dispositivo, riuso questa parola, io facevo documentari, raccontavo la città, insomma raccontavo le metropoli, anche l'emergenza abitativa, insomma era uno dei temi di cui mi occupavo, però questa volta abbiamo proposto, diciamo, un cinema, possiamo chiamare situazionista, cioè non era tanto l'idea di raccontare Metropolis punto in maniera oggettiva, oppure era di portare il cinema e nello specifico l'idea del viaggio sulla Luna come diciamo cavallo di Troia per entrare e fare anche accadere delle cose, diciamo, no? Quindi il documentario lo volevamo portare a casa, ma era aperto, non sapevamo se questo razzo che abbiamo proposto agli abitanti per andare a vivere in un altro pianeta, visto che Roma, la Terra, era un terreno inospitale, diciamo, quindi terreno utopie, foglio bianco dove scrivere qualunque cosa, no? Non ci venisse in mente per ricominciare, ma anche un gioco che capivano i bambini, no? Andiamo tutti sulla Luna, insomma, era abbastanza trasversale, diciamo. Questo progetto è durato un anno, Gian Maria Tosatti è il primo artista che ho invitato a fare un'opera a Metropolis, si è realizzato. La prima cosa è guardare verso il cielo. La prima cosa, tutti i progetti spingevano a guardare verso il cielo, diciamo che ci abbiamo messo un anno a costruire questo razzo favela, questa specie di baracca verticale che puntava al cielo, che poi come una clessidra diciamo si è rigirata ed è atterrata dove è partita idealmente. No? Ricorda un po' i BDS, no? Sì, sì, ma era l'anno, ma non è un ricordo così, era voluto perché sì, diciamo era l'anno in cui c'erano i 100 anni dal viaggio sulla Luna di Méliès, e quindi questa idea del viaggio sulla Luna. Noi volevamo alla fine di tutto anche fare un corto in pellicola dove proprio c'era lo storyboard con i metropoliziani con le valigie che si imbarcavano sul razzo, che era anche un'opera corale. Cioè questo, cioè, vedete era anche... che c'è sempre una narrazione dietro, ci sono i metropoliziani, cioè c'è comunque sempre un racconto dietro il progetto. Sono progetti che, come dire, non sono dal basso, cioè vengono fatti con il basso insieme, diventano una cosa mista, alto, basso, però, come dire, noi li abbiamo portati sempre dal di fuori come proposta, cioè non è che è nato dentro Metropolis il viaggio sulla Luna, noi abbiamo bussato. Un gruppo di intellettuali di Prati. Un gruppo di intellettuali di Prati con il rischio di prendere due schiaffi perché poteva essere gente che fatica a mettere insieme il pranzo e la cena di fronte all'idea, perché non giochiamo al gioco della Luna, costruiamo un razzo e andiamo tutti. Cioè ci potevano anche picchiare. Cioè, perché allora come avete impedito il conflitto? Perché in questo momento, cioè in questo momento effettivamente. Se senti qualsiasi tentativo di dialogo tra la periferia e il centro, perché Roma è una città dove il centro pretende di raccontare la periferia, questo è quello che succede. Quello che è riuscito a fare Giorgio è stato rompere un po' questo schema, cioè creare un'alleanza. Noi abbiamo proposto un gioco, una situazione di gioco, in questo caso lo considero un progetto situazionista, cioè abbiamo detto il gioco è il cinema da una parte, il viaggio sulla Luna dall'altra, no, volete giocare con noi, che si traduce anche volete giocare con noi al gioco dell'arte, che è un gioco che è proprio di tutti gli umani, tranne che oggi lo giocano solo quegli umani che si chiamano artisti, però di fatto appartiene a tutti. Volete abbandonare 5 minuti i sogni che vi schiacciano per dedicarvi ai sogni che sono una istanza di libertà, no, dove possiamo dimenticarci un attimo lo sgombero, la fame, il tetto e pensare, come dire, no? Quindi era proprio un gioco tutto spostato sulla notte rispetto al giorno lavorativo, sul festivo, rispetto, cioè se tu fai una cosa strutturalista per opposti, c'hai il sole, la luna, il giorno, la notte, il lavorativo e il festivo, no? Il pratico, i bisogni, i sogni, no? Quindi diciamo è proprio un... cioè noi stavamo tutti spostati su quel fronte lì, no? Con il desiderio che questo percorso innestasse dei processi, però senza nessuna volontà di dire, anzi molto attenti a non dire adesso portiamo un progetto che vi cambierà la vita, da domani sarete... Cioè, anzi, abbiamo pensato alla Luna proprio perché era così distante che alla fine nessuno poteva realmente credere che la nostra presenza lì avrebbe trasformato concretamente le loro esistenze, diciamo. Quindi siamo andati molto prudenti, insomma, anche. Poi ci siamo resi un po' meno prudenti col secondo gioco, perché nonostante le difficoltà, il primo aveva funzionato, quando ci hanno chiesto di rimanere io ho proposto un'altra situazione di gioco, che questa volta era il gioco del museo, cioè abbiamo una collezione di relitti spaziali d'artista importanti, Stanley Lex, Tosati, Luca Maleonte, pistoletto non c'è. Non c'è, no. No. Dopodiché ho detto... iniziamo il gioco del museo, l'ho sempre condiviso perché non è che, però diciamo che la prima mossa è stata quella di aprire pagina Facebook e dire nasce 23 aprile del 2002, nasce il terzo museo di arte contemporanea della capitale in concorrenza con Maxi e Magro, questa è stata la dichiarazione di apertura. Il museo non c'era tranne queste opere pre-museo che stavano lì a dire che... Però poi da quel momento in poi? Da quel momento in poi è iniziata l'avventura del MAM, cioè il museo dell'altro e dell'altrove, spiego brevemente il nome che è abbastanza chiaro, credo, però l'altrove è appunto la Luna che Metropolis aveva conquistato, con il suo viaggio, e l'altro è ciascuno di noi rispetto a tutti gli altri, cioè non ci sono solo gli italiani, i marocchini, i peruviani, i rom, cioè ci sono una quantità di differenze che poi gli artisti incarnano bene in questa loro singolarità che è richiesta, è obbligatoria per l'arte contemporanea. Un tempo non era così, c'era l'arte del 400, cioè forse il 400 già c'erano i nomi, ma nel 200 c'era l'arte dell'epoca, diciamo, no? O di quel territorio. Oggi se non sei diverso da tutti gli altri non sei neanche considerato un artista. Quindi diciamo queste singolarità le abbiamo esasperate per dire che per noi era importante il valore della differenza, e che questo museo sarebbe stata una sorta di bar di guerre stellari, cioè dove l'interesse era far incontrare mondi lontani, esseri differenti che, come dire, pacificamente si ritrovavano lì, in questo caso per il tramite di questo gioco nuovo che era il museo, che univa il punto più alto e il punto più basso delle metropoli contemporanee, cioè il museo d'arte contemporanea affidato agli artistar e lo slam, diciamo, no? La polvere sotto il tappeto. Va bene, il bar di guerre stellari ritorna spesso nelle nostre conversazioni, però effettivamente, no, quando Lucas nel 76 credo fa questo primo episodio, il bar è già una metafora dell'incontro necessario, dell'osmosi tra diversità, eccetera, che effettivamente molto spesso i nostri musei non, anche quando provano a raccontare l'altro, te lo fanno all'interno di questa famosa cornice, no? Allora, io citavo Wang, che ha fatto queste grandi interazioni al Paris, per raccontarti quello che succede con gli artisti dell'Iran, però comunque diciamo è un confronto molto intermediato, un confronto che non mette grandi sorprese, poi soprattutto tende quasi sempre a solidarizzare, no? Cioè ti dà come unica soluzione quella di dire: ecco, vedi che bravi, poverini, la guerra, l'imperiato là, eccetera, fine. No? E invece una cosa interessante del mamma è che qualcuno ti può stare anche seriamente antipatico, no? Cioè l'incontro non vuol dire che ti devi innamorare, l'incontro, esatto, ha varie opzioni che può risultare, come dire, positivo, può anche allontanarti, può farti cambiare idea, come pure riconfermarti nei tuoi punti di vista, insomma. Ecco, a proposito di paura, cioè, insomma, mamma ha i suoi punti oscuri, no? Cioè, per esempio, una reazione che molte persone hanno dal mamma è la sensazione di essere un luogo che non è sicuro, ovviamente perché non rispetta le regole del 2-3-1, non rispetta i vincoli e che non si sentono neanche al sicuro, perché è abitato da persone che normalmente nella loro percezione sono fonte di preoccupazione, ci abitano 100 rom, quando quelle stesse persone probabilmente se prendono la metro, non tutti la prendono, ma qualcuno la prende, se vedi salire a Roma si tocca il portafoglio per dire: ma per fortuna ce l'ho ancora, no? Quindi è evidente che è un luogo, però è un luogo anche che ti fa un po' abbassare la guardia, cioè la guardia la puoi mantenere alta, quello dipende veramente quanto sei disposto a lasciarti andare, però il gioco del mamma è proprio questo, cioè che tu pensi di andare a vedere i poveri e trovi un museo, pensi di andare a vedere il museo e ti trovi i poveri, cioè comunque ti crea sempre un problema, diciamo, no? Questo problema è necessario, cioè io cito sempre Charcot, che era questo medico francese esperto di ipnosi, maestro di Freud, insomma, no? Che si narra che per ipnotizzare le sue povere vittime li metteva un attimo in un momento di disagio, faceva salire sul palco con due sedie e diceva: si accomodi, e con una mano ne indicava una e con lo sguardo l'altra, diciamo. Poveretto non sapeva se doveva andare di qua, doveva andare di là, lui tac, lo ipnotizzava. Si racconta, diciamo, per me il mamma ha questa funzione qua, cioè tu arrivi e dici: tu stanno i poveri e ti ritrovi il pistolero, non sta l'arte e ti ritrovi i bambini e ti arriva una pallonata sulla schiena, perché dici: ma come, un museo, questi stendono i panni e cucinano, capito? Allora, diciamo, questo momento di crisi, diciamo, di quello che tu pensi essere un museo o pensi di essere uno slam, no, ti dovrebbe far vacillare un secondo per permetterti di aprirti, come dire, a riconsiderare le due categorie cognitive. Poi noi ti aiutiamo a riconsiderarle stando lì, però diciamo che questa cosa è necessaria, cioè uno scarto serve, se no uno rimane con le sue idee che nemmeno considera pregiudizi, pensa siano, come dire, no, cose ragionate, frutto di studio, di riflessione, insomma. Così è il mondo, ma il mondo è anche diversamente da così. Allora, siamo arrivati a mezzogiorno, io penso che magari può essere l'occasione per fare qualche domanda a Giorgio De Finis, che come avrete capito non è una persona che farà risposte necessariamente consolanti. Un ottimista è inseguibile. Sì. E poi magari ti proporrò, Giorgio, ragionaci un attimo intanto, se vuoi io posso, sia, poi possiamo anche congedarci, eccetera, oppure io pensavo di dedicare quest'ultima mezz'ora al tema del riquadro, cioè al tema di come l'arte riesca a volte a sostituire i media nella capacità di aprire gli occhi alle persone sul mondo, perché ancora esiste un pezzo di arte che ha una sua libertà rispetto ai racconti dominanti, no? Esiste ancora, per le ragioni più varie, no? C'è la ragione dell'artista che è così ingovernabile, che riesce veramente, dall'altro della sua straordinaria onestà, a farlo, ad aprire questo riquadro, oppure esiste anche il caso di istituzioni forse molto autoreferenziali, con una storia molto pesante alle spalle, penso alla Documenta di Kassel, che però per il semplice fatto di appartenere a un grosso sistema di fondi pubblici in qualche modo risponde a regole diverse rispetto alla Gagosian, alla Guggenheim, insomma al mondo dell'arte finanziaria che dicevi prima, e quindi possono succedere cose strane come è successo alle ultime due Documenta. Non so se vuoi assistere anche a quest'ultima parte, però intanto approfittiamo per apriamo un attimo, apriamo le telefonate come si fa nelle radio di Roma e Lazio. Ok, sì, infatti la riprendo. O te lo porto, faccio il valletto, te lo porto. Questo per Eleonora, chiaramente, così si presenta. Ciao Eleonora, no, sfondo la quarta parete anch'io. Io volevo sapere proprio tecnicamente, se possibile, cioè quasi proprio a livello tecnico e anche nei rapporti con appunto anche delle pratiche proprio antropologiche, come ha funzionato l'automappatura al macroasilo. Cioè questo concetto di automappatura, come si è calato nel contesto, cioè perché gli artisti che si automappano. Sì, cioè nel senso, io riesco perfettamente a capire il discorso di se è aperto a tutti, è aperto a tutti, punto. Quindi cioè ci vuole un piano di reale di uguaglianza in potenza, di apertura. Ma poi tecnicamente come funziona? Cioè a proposito di gestione del conflitto, no? Come funzionava? Cioè come si... C'erano anche gli scontenti, Cioè. Vuoi che rispondo una volta o... No, tutto insieme. No, nel senso, questo auto io lo uso su tutto, cioè perché per me dire io è l'unico modo per garantirsi, diciamo, cioè come dire, oggi c'è un problema, no? Di decoloniale, cioè, se tu dici io non c'è nessun problema decoloniale, sono io che dico il mio punto di vista, se dico è così, cioè, si apre un grosso problema, no? Allora il macroasilo, ma tutti i miei progetti sono auto, cioè il mamma è autonominato, è autogestito, è auto, cioè no, l'auto mappatura, l'auto come dire, no, ritratto, l'auto, cioè l'auto vuol dire sempre dire, metterci io davanti, qualunque cosa dopo segue, no? E lo deve dire pure il critico, non deve dire è così, deve dire io penso che, allora, tutto è messo sul tavolo e tutto è accettabile, cioè non c'è un esercizio di potere se io dico io il mio pensiero, voi lo accettate o non lo accettate, se io invece sono l'esperto e dico è così, quella questione è più delicata, no? Cioè io sto spacciando per oggettivo un pensiero soggettivo, quindi diciamo, quindi questo auto per me è importante. Dopodiché in un progetto che dice io non ho le forze per fare un museo, nel senso non ho l'economia, non ho, e poi a me non interessa neanche, devo essere onesto, però diciamo che se avessi avuto 10 milioni di euro avrei potuto fare anche un museo. Diverge, poi faccio delle scelte, poi magari le faccio democratiche, faccio come dici, no, ma se io ho 3.000 euro al mese, io parlo a volte e dico mi date una mano, e alzano la mano, e per alzare la mano bisogna dire io voglio partecipare alla costruzione di questa cattedrale laica medievale, dove ognuno fa un pezzettino, sia il mano sia il magno, lo stesso, cambia, diciamo, la forma, no? E lo faccio dichiarando che sono un artista in salute e, come dire, in piena consapevolezza. Questo lo dico perché sai quanti dicono io so, poi no, io questo l'ho specificato perché poi c'è un curriculum, appunto, ognuno entra con le medagliette, possono essere anche poche, ma perlomeno devi star bene, nel senso che non ce l'ho con chi star male, però l'arte è l'espressione massima della libertà, diciamo, chi sta male è condizionato dalla malattia, cioè ha coazioni a ripetere. Quindi io ho chiesto che uno dicesse io sono un artista nella vita, faccio questo, con successo no, non me ne frega niente, voglio dare un contributo al museo. A quel punto, come dire, rispondi all'invito presentandoti, tutto qua, capito? Poi è chiaro che noi non è che stavamo al mare mentre il museo andava, cioè noi stavamo tutti i giorni a incontrare gli artisti, a decidere che spazi dargli, piccolo, grande. Cioè è chiaro che se arriva un artista debole, uno dice vabbè dai, ti diamo un'ora per far raccontare che fai, ce lo fai vedere con slide, poi se giochi, se sei un po' meno debole e c'è spazio, poi a un certo punto lo spazio si riempie, ma all'inizio magari serve anche che si occupino le caselle, magari ti prendi una settimana, ci fai un quadro, non sarà necessariamente un capolavoro come altri, ma va bene così, perché dentro questo spazio che vuole funghi e querce, cioè, ci sta bene pure il fungo ogni tanto, no? E tra l'altro ti sottolinea la presenza del fungo, l'invito a, come dire, ad esercitare un giudizio critico verso quello che stai vedendo nello spazio del museo, che non sta dicendo mai, ha detto, quello che entra qui è di per sé arte perché lo dico io, sta dicendo il museo fa un passo indietro verso chi ha le caratteristiche minime per entrare e dire che sono io il museo per un'ora, per una settimana, per un mese, per tre giorni, cioè, e il museo sei tu, ti prendi la responsabilità. In quanto forma di vita, no? In quanto forma di vita, in quanto ci metti la faccia, ci metti, cioè, ti auto, quell'auto vuol dire anche rischiare in un dispositivo del genere che nessuno ti protegge, cioè tu vai a fare la tua conferenza dicendo io e la platea ti fischia, cioè, adesso non succede per educazione, però in teoria è uno spazio agonistico, uno spazio dove, come dire, ti assumi le tue responsabilità, no? Cioè a me mi dicevano, sbagliando, non avevo capito niente, che mi diceva ho visto delle cose veramente belle al Maglio, certo altre, allora non hai capito niente del Maglio. Se mi dici certo altre, non hai capito che io ne ho viste. Partivo dicendoci, c'era un sacco di ciarpane, ma era fondamentale per poter avere lo spettro totale. Diciamo adesso, ma a me dispiace anche chiamarlo così, però è evidente che c'erano una quantità di cose che a me facevano orrore, ma con i miei gusti, certo, ma personali, non soggettivi, perché poi quelle cose ad altri piacevano molto, quindi ci stava spazio per tutti, diciamo. Però diciamo, perché il museo deve assomigliare a me? Questa è pure una domanda che io mi chiedo, cioè perché deve assomigliare al curatore che c'ha i suoi gusti? Cioè, qui quando Petropolis entra dentro il macro, no? A un certo punto facciamo questa operazione strana, nel senso, il mio mandato 2 più 2 si riduce a 2 perché devono sgomberare il MAM, e quindi sei diventato scomodo. Quindi sono diventato scomodo, sapevano che io avrei portato a dormire un padre, cioè sapevano che non l'avrei passata così, come dire, beh, se cose capitano, cioè, perché era un tradimento dell'impegno preso con l'amministrazione, cioè se tu amministrazione vieni al MAM, mi chiedi di entrare al MAM, valorizzi il MAM, mi dici tanto mi piace il MAM che ti do il Maglio, e poi mi fai sgomberare il MAM, c'è, cioè, qualcosa che non torna, quindi è ovvio che io gli avrei fatto guerra da qua dentro, insomma, no? Quindi loro lo sapevano e hanno chiuso tutto, diciamo, molto rapidamente. Allora io ho portato questi oggetti qui per segnalare che intanto il Maglio stava morendo per via della fine imminente anche del mamma, cioè che era un'operazione in cui si chiudeva tutto, quello che fino a ieri sembrava interessante oggi veniva abbattuto. Questa è un'altra cosa, questo è stato un mese di, c'erano delle stanze d'artista, c'erano dispositivi diciamo relazionali in cui in quelle stanze succedevano cose, ognuno con il suo. Questa era una stanza che ho curato io con Mazzone, che era una stanza dedicata alle assemblee degli spazi sociali occupati, cioè nel senso che come il museo valorizza l'opera, cioè tutto quello che entra nel museo viene valorizzato, io volevo valorizzare il momento democratico dell'assemblea orizzontale, cioè volevo sfruttare diciamo la potenza del museo come spazio sacrale, come spazio, no? Che è capace quando una cosa entra di trasformarla in arte, l'orinatore di Duchamp, sta bottiglia, se va al Maxi è un'opera, quindi il Maxi ha un potere magico come ce l'ha l'artista se è riconosciuto eccetera. Allora io ho detto che ci porto l'assemblea orizzontale, che peraltro è un altro spazio chiuso, non è che tu vai a visitare l'assemblea di uno spazio, cioè, come no? Cioè un momento privato del luogo, no? In cui le porte si chiudono e diciamo gli addetti ai lavori si litigano, si dibattono. Cioè. Allora a me interessava, come mi interessava cosa fa il pittore chiuso nel suo studio, mi interessava far vedere come si esercita una democrazia orizzontale in uno spazio dove il capo ha lo stesso potere. Il capo riconosciuto, cioè quello, il frontman, quello che poi parla. Sì, ma è affascinante perché oggi come oggi, in cultura, i famosi manifesti che ogni tanto voi vedete che escono, non sono il frutto di un lavoro come questo, con le emozioni che si confrontano, i voti, eccetera. I manifesti sono dei flyer, tipo il manifesto delle parole ostili. Non so se avete presente, quello che è partito a Trieste alla fine del 2015-2016, la prima. L'ho firmato anche io, ma poi mi sono tolto la mia firma. Io ho partecipato ai lavori, eccetera, perché ho visto che era stato elaborato come un flyer di un'agenzia di comunicazione. Cioè erano 15 bullet point per ottenere una buona rassegna stampa, questo era l'obiettivo. Ecco, non c'era dietro un processo democratico da far vedere, cioè far vedere come nasce un manifesto. Cioè noi abbiamo trasformato l'idea stessa di manifesto in un progetto di comunicazione. È una parola che mentre io la dico mi vengono un po' i brividi. Purtroppo significa in quanto tale non è democratico, cioè risponde a un preciso rapporto di forza, cioè il fatto che funzioni per le regole dei media e quindi ottenga una certa risonanza con la stampa. Questo che invece accadeva lì al Macro, che era visibile a tutti, era un po', lasciatemi dire, era un po' come essere la fiera del Levante degli anni Ottanta, quando ci fu l'ultimo congresso socialista prima che li arrestassero più o meno tutti, però almeno vedevi il confronto tra le emozioni. E poi però in realtà qui c'è stato un lieto fine, purtroppo questa sorta di momento grande democratico si è, il Macro purtroppo è chiuso nella gestione dei film. Io non sono così negativo sulla gestione del Pinto come ma è brevissimo Pinto a fare quello che faccio talmente agli antichi, sì, è sicuramente che faccio io diverso. Almeno questo posso dire, sì certo. Cioè, bravissimo a fare un'altra cosa. E mentre Metropolis per fortuna ha un fine più lieto. Ci sono altre domande su questo, su tutto quello che abbiamo detto finora, o passiamo alla parte? No, facciamo le parole domande, se no. Perché non è che siano spigliatissime con le domande. Domande, ma anche necessariamente domande, sì, anche osservazioni. Le famose, la mia anche è una domanda. Schifo. A me fa schifo. A me fa schifo, va benissimo, perché serve anche quello. Il famoso la mia non è una domanda ma è una considerazione, no? Che di solito ci vuole una giacca di tweet per dire questa cosa, però è anche il cappello. Io più che altro una domanda relativa a come procede il... Aspetta Mattia che deve risultare agli atti. Come procede il dialogo con il proprietario dell'immobile occupato al MAM, perché c'era stata la proposta, senti andiamo insieme alla Biennale di Venezia, eccetera, però insomma c'è sempre stato il suo essere molto restio e non, anche per le pressioni esterne, perché ovviamente cioè, lì c'è tutto un indotto e un... è un grumo di poteri abbastanza articolato che impedisce al singolo di prendere una decisione in piena autonomia, in quanto costituirebbe un precedente poi per tutte le realtà che vivono situazioni simili e che potrebbero quindi essere risucchiate da questa dinamica sovversiva, appunto. Salini, che mi ha chiamato a un certo punto, ha detto: ci racconti che stai combinando a casa nostra? Ho detto, gliel'ho raccontato. Dice: questa cosa un po' ci disturba. Dico, lo capisco, è fatto apposta, però dico, possiamo anche metterci dalla stessa parte. Dico, voi fate un gesto generoso, donate questo spazio al pubblico, anzi donate e ristrutturatelo, perché non si dona uno spazio cadente e pericoloso, quindi cioè, fate questo sforzo. Del resto ci sono gli sponsor che pagano, come dire, la ristrutturazione del Colosseo, cioè non è che era una cosa così, cioè, no, ho detto andiamo insieme, costruiamo questo spazio, cioè voi fate un bel gesto, regalate alla città uno spazio, regalate la casa a delle persone, eccetera, insomma, e sicuramente questa cosa verrà premiata, perché insomma abbastanza insolito, diciamo, come esito, no, di un conflitto. Allora ha detto, non è che non si potrebbe fare, ci penseremo. In realtà, quello dice Mattia, è giustissimo, cioè se Salini fosse andato, cioè avesse donato a chi gli aveva occupato lo spazio, diciamo, la proprietà, anzi, mettendola anche a posto, è evidente che era un precedente che poteva essere replicato all'infinito, e quando si sedeva al circolo Canottieri, invece di bersi l'aperitivo, i colleghi l'avrebbero colpito con la mazza. Quindi diciamo che non ha voluto, potuto fare questa cosa. Poi Salini, Salini sapete chi è? Salini è We Built, Salini è quello che deve fare il ponte sullo stretto di Messina, è quello che ha fatto il ponte di Genova, è quello che ha fatto la diga nella Valle dell'Omo, che ha riqualificato lo stretto, diciamo, di Panama, insomma, cioè, stiamo parlando, diciamo, del fatturato numero uno delle costruzioni in Italia, insomma, quindi non è proprio, diciamo, il costruttore così che fa le palazzine, diciamo, palazzinaro, tre villette a schiera, cioè stiamo parlando di un mostro, diciamo, nel settore. Allora, quello che è successo è sintetizzo per arrivare all'oggi, perché oggi con Salini noi siamo tutti intorno a un tavolo a festeggiare, diciamo, che è un po', bisogna spiegare come è successo, diciamo. Cioè, Salini ha ottenuto il primo maxi risarcimento di 28 milioni di euro dal Tribunale Civile di Roma per mancato sgombero. Questi soldi li ha pagati il Ministero dell'Interno, diciamo, cioè, che è stato accusato dal Tribunale di non aver fatto il suo lavoro, cioè garantire la proprietà privata. Cioè, la proprietà privata viene occupata, tu mandi le forze dell'ordine, tu li... Ecco, diciamo, Salini ha pagato 3-4 milioni di euro quello spazio che era zona industriale, poi ha ottenuto il cambio di destinazione d'uso che ha moltiplicato il valore, ma non ha mai speso di più, non ha fatto le case, non ha fatto niente, eppure ha avuto ben due maxi risarcimenti, il secondo un pochino più lieve, e poi è partita una penale mensile, c'è una sorta di affitto che comunque andava pagato per, fino a sgombero effettuato. Ora, questa cosa nella gestione Bergamo 5 Stelle, dopo il primo maxi risarcimento si è pensato che in 6 mesi bisogna sgomberare tutto. Poi c'è stata la pandemia che ha rallentato questa possibilità, perché non puoi sgomberare sotto epidemie, cioè non metti la gente per strada. Anzi, quello spazio ha salvato le famiglie, che hanno, i bambini che hanno continuato a studiare perché erano protetti, non dentro casa, ma almeno nella cittadella, diciamo, e hanno potuto vivere molto meglio di tanti di noi, chiusi in pochi metri quadri, diciamo, quel periodo. E a un certo punto, altre minacce, siamo arrivati primi, sempre primi nello... lista degli sgombri della prefettura, fino a che qualcosa è cambiato, cioè si è pensato con il prefetto, con la nuova giunta, si è pensato che forse si poteva fare un'altra cosa, cioè, e l'altra cosa è quella che si sta facendo. Naturalmente andava verificata quest'altra ipotesi cioè bisognava sentire la proprietà, capire se la proprietà era d'accordo o non era d'accordo. In questo caso è stata d'accordo, e quello che adesso si sta facendo, e si è già a buon punto di un cronoprogramma di documenti infinito che prevede anche la variazione del piano regolatore di Roma, quindi non sono cose che si fanno facilmente, diciamo. Però le stanno facendo, è che lì ci saranno, nasceranno due palazzoni con 150 case popolari, di cui 70 circa andranno agli attuali residenti di Metropolis, e verrà salvato il MAM, che diventa a tutti gli effetti museo del Comune di Roma, con questo nome, cioè non un presidio culturale, cioè il Comune di Roma ha chiesto che ci fosse, diciamo, fosse salvata l'esperienza del MAM, quindi del museo dell'altro e dell'altro. Questa cosa che sta uscendo sui giornali e noi stiamo seguendo da svariati mesi, diciamo, è stata, come dire, un po' sancita, cioè è arrivato il momento in cui il sindaco se l'è sentita di metterci la faccia, cioè di venire. Vuol dire che il percorso è a un certo punto, diciamo, no? Ha superato una serie di ostacoli iniziali che potevano venire dalla regione, da tante altre istituzioni che devono far parte di questo progetto. E quindi, insomma, questo è quello che speriamo di ottenere, cioè, insomma, sarebbe, diciamo, abbastanza miracoloso che, no, un progetto così, che ha difeso la casa, ma che la difendeva, come dire, in maniera così, no? Cioè, anche sul paradosso di dire, se sgomberi 200 persone esce un trafiletto, bonificata l'area della ex Fiorucci, se distruggi le opere d'arte tutti si indignano, no? Cioè, come dire, l'opera d'arte vale più delle persone, vale più di tutto, no? Noi abbiamo usato questi paradossi del nostro mondo, di cui ci dovremmo anche vergognare un po', ma li abbiamo usati per dire, allora, riempiamo di opere d'arte la casa di questi signori e così la proteggiamo, insomma, no? Cosa che di fatto è successa, insomma. Quindi adesso siamo molto contenti, insomma, di questo andamento, che non è ancora privo di ostacoli, e stiamo sempre, insomma, come dire, ogni passetto fatto respiriamo, ma insomma, diciamo, vedremo. Però, diciamo, è una piccola rivoluzione, insomma, dico piccola per fare il modesto. Allora, se poi vi viene in mente qualche altra domanda, c'è ancora tempo alla fine, visto che Giorgio è così gentile da rimanere con noi. Io volevo finire un po' le slide che avevamo interrotto prima, perché c'è una parte finale che racconta un po' quello che succede quando una grande istituzione pubblica, che ancora sfugge alla regola esclusivamente privatistica, cioè l'arte va dove va il mercato, ci sono ancora queste grandi, diciamo, mostre come la Documenta, che forse mi verrebbe da dire quasi in modo controintuitivo, cioè senza nemmeno volerlo forse, però si trovano in condizione di scrivere delle regole un po' diverse, a partire dal momento in cui viene assegnata la direzione artistica. Ma questo è quello che è successo per due edizioni di fila nelle ultime due Documenta, dove entrambe le direzioni artistiche poi si sono risolte pubblicamente in dei clamorosi fallimenti finanziari, fallimenti di pubbliche relazioni, cioè entrambe le ultime due Documenta ufficialmente, per il sistema sia dell'arte ma soprattutto anche il sistema dei media che le racconta, sono state dei fallimenti. Io sono giunto alla conclusione che quando qualcosa integralmente, qualcosa di così importante integralmente viene giudicato un fallimento, evidentemente si è smosso qualche meccanismo, no? Per esempio, quando la Documenta 14 è stata affidata al giovane Adam Sismik, questo curatore polacco che sì, sicuramente in quel momento andava abbastanza per la maggiore, perché è una persona che è capace, molto furbo, diciamo, a muoversi su entrambi i fronti, il fronte del sistema dell'arte finanziario, ma anche il fronte del sistema dell'arte dichiaratamente, almeno barricadero. Quello che succede è che Sismik arriva nel 2017 e trasforma la Documenta, che, come forse voi sapete, si svolge a Kassel in Germania, ed era diventata negli ultimi anni anche quello una sorta di luogo di autocelebrazione, un luogo molto autoreferenziale dove i principali tenutari della macchina finanziaria dell'arte contemporanea si ritrovavano per dirsi quanto erano bravi, sorseggiando un flutto, eccetera. Arriva Sismic, la prima cosa che fa e dice: no, quest'anno non si fa solo a Kassel, si fa anche ad Atene. Ricordiamoci che siamo nel 2017, quindi soltanto l'anno prima la Merkel aveva mandato la troica da Tsipras e soprattutto Varoufakis a dirgli fondamentalmente che tutto ciò che era pubblico in Grecia doveva essere privatizzato, perché altrimenti sarebbero usciti dall'euro. La faccio proprio in sintesi. Quindi, che cosa voleva fare Sismic con la documenta? Ricordare fondamentalmente al paese che ospita la documenta, quindi era molto legato al fatto che si svolgesse in Germania, anche se è una grande, diciamo, è una grande organizzazione internazionale ormai, ricordargli che se l'arte poteva avere, diciamo così, un ruolo di riquadro di attualità, non poteva passare questo messaggio dei buoni che dicono ai cattivi come si rimedia alle proprie malversazioni finanziarie. Fondamentalmente devo fare un po' di passi indietro, perché la Grecia, come era entrata nell'euro la Grecia, no? Era entrata facendo parecchio debito, quindi i conti erano stati effettivamente truccati, ma non ovviamente dal governo Tsipras che era in carica in quel momento, ma dai governi Papandreou che l'avevano preceduto. In tutto questo, quindi, i tedeschi avevano raccontato a se stessi, almeno per 2 anni, che meno male che c'erano loro che dicevano ai cattivi come bisognava comportarsi. Cosa fa Sismic? Che quando arriva dice: attenzione, perché in questo modo noi stiamo propagandando una grande leva di potere, non possiamo, diciamo così, considerare i greci semplicemente come un popolo di 11 milioni di persone che devono tutti i giorni redimersi da questo grande peccato, e quindi apre un occhio là sulla Grecia che i tedeschi non volevano più vedere, la Grecia dove per esempio gli anziani, i bambini deboli non avevano più neanche la possibilità di procurarsi dei medicinali, no? Perché questo è il livello di, diciamo così, di disagio che è stato portato in Grecia dalle politiche economiche. E quindi un pezzo della documenta si svolge ad Atene. Attenzione, anche l'operazione di, diciamo così, il reframing della relazione Europa-Grecia-Germania, quindi Germania-poliziotto giusto, non poliziotto buono, poliziotto cattivo, e Grecia inadempiente che deve rientrare nei parametri di Maastricht, per intenderci, anche questa operazione fallisce, perché la prima cosa che dice Varoufakis quando Sismic mette in piedi la documenta 14 è: voi volete creare, non volete dare a noi un'opportunità di visibilità della situazione in cui ci troviamo, voi volete creare una situazione di crisis tourism, cioè volete fare in modo che le persone vengano in Grecia a vedere come se fosse una, diciamo, un'attrazione, la condizione di profonda povertà in cui era stato ridotto un intero popolo. E quindi gli artisti come rispondono alla chiamata di Sismic? Protestando con l'operazione di Sismic, e quindi per esempio scrivendo sui muri cose del tipo: cara documenta, io rifiuto di autoesotizzarmi per aumentare il tuo capitale culturale, in qualche modo, no, scoperchiando la disonestà di quell'operazione, ok? E vabbè, poi cosa è successo dopo questa documenta? Adesso io personalmente lo considero un successo, cioè anche perché proprio il fatto di rivelare, no, tutto quello che poteva andare storto è una cosa che può succedere solo quando dietro c'è un grosso finanziamento pubblico. Diciamo così, la direzione organizzativa della documenta dà per la prima volta le dimissioni dopo questo primo fallimento. Passiamo a 4 anni dopo. 4 anni dopo c'è la documenta 15. Allora, vedete bene che quando succedono queste cose comunque si creano dei precedenti di cui l'edizione successiva non può non tener conto. E quindi, se prima era il racconto di un disagio, di una dicotomia economica tra il paese virtuoso, la Germania, e il paese inadempiente, la Grecia, la direzione artistica della Documenta 15 fa un salto ancora più grande, e cioè affida la direzione artistica non più a un curatore singolo, come era stato Adam Sismic, ma a un collettivo indonesiano che si chiama Ruang Rupa. Bisogna aprire una piccola parentesi: in Indonesia non esiste il sistema dell'arte, cioè non esiste questa cosa di cui parlava Giorgio all'inizio, cioè un'organizzazione finanziaria che funziona, che produce profitti, che ruota intorno alla scarsità, quindi qualcuno che traccia una linea, che sta sopra questa linea, questi 40 artisti la fanno funzionare, tutto quello che sta sotto non esiste. Questo è il sistema dell'arte. In Indonesia una cosa del genere non c'è, perché non sarebbe neanche sostenibile quel pezzo di arte contemporanea. E quindi chi è che fa arte contemporanea in Indonesia? La fanno dei grandi collettivi che si autofinanziano con delle operazioni di merchandising, con delle donazioni, con il coinvolgimento di alcuni patrons, cioè diciamo mecenati, potrei definirli così, dei piccoli mecenati locali. Adesso chiaramente, anche essendo diventati più famosi, Ruang Rupa hanno anche una forma di mecenatismo internazionale. Però naturalmente arrivano, a che cosa portano? Non portano la pratica dell'arte contemporanea gestita dal sistema, ma portano il loro modo di lavorare. E loro non fanno curatela. Esattamente come Giorgio al macro, loro fanno una chiamata. Una chiamata di tutti gli artisti che vengono però dal mondo che non fa parte di questo sistema. E rispondono 5.000 artisti. Ovviamente il controllo di 5.000 artisti è impossibile. E quindi molti artisti finiscono per produrre anche cose come questa, e cioè un grande murale che sta nella piazza principale davanti al museo di Kassel. Non so se tu ci sei andato alla Documenta 15, nemmeno io, devo dire è stato un po' triste non andare, perché sarebbe stato molto interessante per me. Dopo neanche 2 settimane di esposizione di quest'opera, che mostra, vi faccio vedere, il classico capitalista ebreo con il cappello con scritto SS, no? Poi vabbè, ci sono altre immagini di questi murales, insomma, che vanno completamente contro ciò che in Germania è tollerabile, direi nel mondo è tollerabile, ma potete immaginare quanto possono essere sensibili i tedeschi all'idea di finanziare con soldi pubblici un'opera come questa, no? Cioè un'opera che ritrae l'ebreo nel modo più non solo spregevole, ma riproduttivo di tutti i nostri, le nostre peggiori istinti, cioè l'idea appunto dell'Uncle Scrooge, no? Quello che tra l'altro è la figura su cui poi viene costruita il personaggio di Paperon de Paperon. E quindi questo è quello che succede quando tu, istituzione pubblica, rompi la regola della grammatica della tollerabilità. Fa entrare tutta l'arte che può creare dei problemi. Mi verrebbe anche da dire, questo è anche quello che succede quando tu sottoponi all'Assemblea Generale dell'ONU una mozione per il cessate il fuoco a Gaza. Succede che scopri che la stragrande maggioranza del mondo la pensa diversamente a quello che i media occidentali raccontano a noi. Quindi quello che succede quando sei molto democratico è che qualcuno può dire quello che la stessa democrazia non accetta più, no? E l'arte riesce a rompere un po' questi schemi quando non risponde chiaramente alla logica dei media. Un'altra cosa che volevo farvi vedere, non so se tu conosci, ma sicuramente sì, perché frequenti l'Abruzzo, no? L'operazione che si sta svolgendo a Termoli, no? Con il MACTE. Il MACTE non è un museo molto grande, è un museo d'arte contemporanea, che però ha un grossissimo pregio, a differenza di quasi tutte le operazioni di musei virtuali che tanto ci sono state propagandate durante la pandemia, di aver trovato un buon punto di incontro, nel senso che le mostre digitali del MACTE non sono cose che succedono dentro il palazzo, ma sono dei siti web. Okay, quindi loro hanno una controprogrammazione di quello che succede dentro il museo e che si svolge sul sito. Quindi il sito non è più né vetrina e nemmeno archivio, come abbiamo visto nell'esperienza del macro, ma è veramente un luogo dove, utilizzando gli strumenti tecnologici, l'artista dalla A alla Z prova a proporti qualcosa di autentico, diciamo, di sostenibile artisticamente. Non so se ci sono altre cose da vedere qua. Sì, vabbè, Art Away lo vorrei adesso, magari ne parliamo in sede di esercitazione. Io direi che sono le 12.36. Se vogliamo fare qualche altra domanda prima di andare a pranzo, ci prendiamo questi ultimi 20 minuti. Soprattutto magari su appunto quello che succede in situazioni come questa. Una piccola considerazione sì. Che farei è che comunque questi sono mai comprende, non è che sono. Cioè la, come esiste anche nel sistema dell'arte mercantile e finanziario che sia, esiste l'arte politica, cioè, che è un settore. Diciamo. Anche la Biennale di Venezia. Ma certo, voglio dire, non è che questi spazi, cioè il fatto che ci siano luoghi dove certi temi politici, anche molto urgenti, no, vengano esposti, non vuol dire che sono fuori del capitale, fuori della mancia. Anzi, come dire. Però la Biennale, leggevo un articolo, perdonami, io leggo ancora no, no, ma tanto. Su Alfredo c'era questo articolo che diceva che tutto sommato il fatto che esistano i padiglioni dei vari paesi fa sì che almeno c'è un confronto tra diverse leve di potere. Ma non sto dicendo che sono luoghi inutili, anzi, quello che volevo dire è che, diciamo, vengono spesi dei soldi, ci sono le più grosse gallerie, ci sono i più grossi artisti, quindi di per sé stiamo dentro il sistema, siamo contro il sistema dell'arte, no? E c'è tutta una serie di arte che è giusto, cioè non è che l'arte dei ricchi è quella preziosa che metti nel salotto e poi c'è un'arte politica, che cioè l'arte politica sta sul salotto nello stesso modo. Che per te lo gruppa su una foglia di no, secondo no, no, no, io dico una cosa un po' più complessa, cioè nel senso questo è il potere per eccellenza, anche un, come dire, è come il greenwashing, cioè comunque sono dei luoghi in cui si può parlare, si può esporre delle cose scomode, si può discutere, però come dire, siamo sempre in una cornice, siamo sempre nel mondo della rappresentazione, siamo sempre nel riquadro. Quando le cose vengono fuori ci sono manganelli, cioè dentro la Biennale puoi parlare tutto, fuori te menano. Allora attenzione a questa piccola differenza. Dopodiché non è che chi va alla Biennale per forza è corrotto o chi sta fuori per forza è santo, diciamo. Cioè, come dire, il gioco della sussunzione, per cui le buone pratiche vengono prese da macchine capitaliste e messe a profitto dicendo guardate quante buone pratiche ci sono nel mondo e tu paghi il biglietto per dire mazza quante buone pratiche, cioè, voglio dire, no, avviene anche al contrario, cioè l'operazione di chiamare il MAM museo è un tentativo di sussunzione al rovescio, cioè siamo noi che sussumiamo il maxi e ci prendiamo il vostro museo e ce lo usiamo al nostro uso e consumo, capito? Però questo gioco è un braccio di ferro, per cui si può entrare, si può uscire, si può stare, ci puoi stare comodo e scomodo, cioè, non, diciamo, non sono, capito, religioso, non penso che bisogna confessarsi, cioè è un gioco anche di strategie, no? Per cui sicuramente c'è l'artista che usa la Biennale per mandare un messaggio vero, c'è sicuramente il collettivo che entra e dice che facciamo, andiamo o non andiamo, cioè sono questioni che ti devi porre, però devi sapere che stai andando in un contesto di un certo tipo, no? Capito? Sì, poi va detto, quindi che al di là della mancanza di curatela, una cosa da apprezzare della Documenta 15 era l'idea di mettere in mostra le pratiche sociali, no? E quindi dei modi, per esempio, di sopravvivere insieme in uno spazio pubblico, no? Una cosa che Round Group sì. Non sono riusciti a fare. Sì. A però fare ripeto, quelle pratiche poi fuori hanno la loro vita, hanno i loro problemi, non è che documenti li risolvi, cioè, capito? Sono vetrine dove accadono delle cose e poi ti cito un esempio così per capire. Cioè, una volta fui invitato come mamma in una riunione dove partecipò Franceschini, organizzato da Fondazione per il Sud a Palermo, una chiamata alle armi di tutte le buone pratiche, comprese quelle meno buone di chi occupa, diciamo illegalmente, però diciamo, tutte le forme buone, ma dietro c'era un'operazione che una legge di Franceschini stava portando avanti, cioè che tu puoi richiedere, tu fondazione bancaria, puoi chiedere e ottenere un edificio di proprietà pubblica, no? Perché lo Stato non può pagare, non può mantenere, non può fare, però come lo fai, come lo ottieni? Devi far vedere che sei buono. Cioè, quindi cosa facevano queste banche finanziarie? La corsa, andarsi a accaparrare le buone pratiche da mettere avanti, a dire noi ci abbiamo loro con gli orti urbani, loro con il sociale, quell'altro qualcosa, però di fatto io sto prendendo un edificio pubblico e me lo sto mettendo, come dire, perché la banca dovrebbe rappresentare una garanzia in questo... Questa legge funzionava, che chi poteva, diciamo, fare domanda e ottenere, non erano le buone pratiche direttamente, no, c'era un ci voleva l'intermediazione di un garante, diciamo, molto potente. Allora è chiaro che il potente c'ha altri interessi rispetto agli orti urbani, cioè, e quindi, diciamo, sono macchine strane in cui, no, tu vieni preso, utilizzato, poi magari ti offrono anche una chance di fare una cosa più facilmente di come la facevi prima, però ripeto, è più complicato di così, non è che documenta come dire, uno spazio di libertà politica, mentre di là c'è il capitale, capitale mangia tutto e non gli fa schifo niente, anche chi lo critica mette a reddito, cioè il capitale c'ha quella potenza che tu dici, scrivi un libro contro il capitale, se fa soldi lo finanzio io. Cioè, capito? No, documenta non è uno spazio quindi, di libertà, semmai è un glitch, cioè il sistema, no, è... Dico, guarda, molta arte politica, c'era una frase che sta a testaccio che dice l'arte politica è arte borghese, l'hanno scritta sul muro, cioè, quindi in parte è vero, cioè, senso, detta così uno la legge, poi io pure faccio arte politica, però vedo una cosa, è un'arte che prende delle cose, le rappresenta e le porta con chiodo alla Biennale, al Maxi, cioè, è una cosa, è un'arte che prova a cioè, noi abbiamo ottenuto 150 casi, abbiamo cioè, capito? E la Biennale infatti non ci hanno mai invitato, che sarà pure un caso, insomma, no? Come dire che poi alla fine... Beh, comunque, alla fine di questa operazione anche la seconda mandata di, diciamo, del comitato esecutivo che gestisce la documenta, anche questi hanno dovuto dare le dimissioni. Quindi praticamente la terza, che vedi adesso, che sta lavorando alla documenta 17... Ma la terza dovrà dimettersi perché è meno radicale delle precedenti, cioè ormai... Cioè, ormai è così, capito? Cioè, uno deve dire, siccome il documento è radicale, cioè, tu devi dimostrare di essere una... Il brand è noi siamo radicali e diciamo cose che nessuno ha il coraggio di dire. Cioè, è ovvio che mo se il terzo di un sedimento sembreranno... devono proprio dire noi non accettiamo, grazie per averci nominati, noi diamo la dimissione. Dici perché? Per principio. È un po' come Sanz sì, quando rifiuta il nome. Certo, certo. Secondo me ormai è così. Va bene. Domande? O avete fame? Secondo me avete fame. Siete stanchi. Che ne so. 45. Non li torturiamo, un quarto d'ora anche dentro. Diciamo, va bene così. Ok. Va bene, allora io la registrazione la chiudo. Grazie naturalmente Giorgio. Grazie a voi, grazie a te. E se volete andare a vedere Metropolis è il sabato, che è aperto il sabato, tutto il giorno o solo la mattina? Dalle 11 fino a che non fa buio. Dalle 11 sì, è una, comunque una visita che consiglio, e poi anche di seguire le altre cose che combina Giorgio, cioè il Museo delle Periferie che dovrebbe aprire nell'ambito di... Però facciamo cose in giro, insomma, c'è comunque, il festival. L'istituzione Museo delle Periferie è dietro anche una serie di altre operazioni che si svolgono nel frattempo, tra cui a giugno c'è l'Iber, giusto? Sì, l'Iber Festival, la Belanda, ma insomma diciamo che il museo lo fai pure senza la sede, poi la sede ci farà comodo, però non serve niente per fare un museo, si può fare un museo ovunque. Benissimo. Quindi, sì. Grazie Giorgio, grazie a voi. Thank you very much.